spaziale. Indovina la parola nascosta per fuggire dal buco nero. Fantasmi accarezzano te, ti inquietano e il mio respiro è profondo. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Freddo il letto, il balcone, una fuga dalla mia cella di cemento. In strada passeggiano ragazze, io osservo le moverse, i segni nella pirella. Qualunque per farla prigioniera tra queste mura e non darla, e non darla, e non darla di odori e carezze. Lei, la, la, la, la, la, e non darla di odori e carezze. Morsi e sudore ancora carezze. E non darla di odori e carezze. Morsi e sudore ancora carezze. Ma sono solo so. Abbandono i miei sogni di silenzio dall'alto di un balcone, come un imperatore.